Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Gentile signor ministro Maria Stella Gelmini. Le parlo a nome di un gruppo di studenti della Sissa. Lei ha indicato due punti in cui intende. Buongiorno ministro Gelmini. Sono un docente di pianoforte, musicista. Io, come tanti miei colleghi, siamo in trepidante attesa di sapere da lei le sue intenzioni, le sue idee su come rivoluzionerà la didattica musicale in Italia. Sono solo alcune delle domande, richieste, osservazioni arrivate su YouTube al ministro Gelmini, che ha inaugurato, lo sapete già perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa, uno spazio aperto a tutti per confrontarsi sui temi della scuola. Ed è proprio il confronto che ha portato giovedì all'accordo governo-sindacati su molti punti, primo fra tutti l'introduzione del molto discusso maestro unico. E allora parliamo dell'accordo di giovedì, questi i punti principali. Cominciamo dai più piccoli. Alla materna restano le 40 ore settimanali con le due maestre. Alla primaria il maestro unico effettivamente verrà introdotto, ma solo per le famiglie che sceglieranno le 24 ore settimanali, cioè laddove il bambino resterà a scuola solo al mattino. Per quelli che invece sceglieranno le 40 ore, quindi il tempo pieno, restano le due maestre. Alla secondaria di primo grado sarà obbligatorio un orario dai 29 alle 30 ore, quelle a tempo prolungato funzioneranno con non meno di 36 ore e un massimo di 40. Siamo poi alla riforma dei tecnici, che partirà ma con un anno di ritardo, cioè non dal prossimo anno scolastico ma nel 2010-2011. Altro punto importante, non verrà aumentato il numero di alunni per classe, almeno per il prossimo anno scolastico. Queste dunque le novità principali, anche se il ministro della Pubblica Istruzione Gelmini tiene a precisare che, nonostante i titoli di molti giornali, non c'è stata nessuna retromarcia da parte del governo. È tutto confermato, dice. Un unico maestro sarà il punto di riferimento educativo del bambino e viene abolito il modello a più maestri degli anni 90. Chiunque affermi in queste ore, dice ancora la Gelmini, che è cambiato qualcosa, sta semplicemente dicendo una falsità e cerca in maniera strumentale di mettere in discussione la linea del governo, che non è mai cambiata e che non cambia. Che ci siano novità o meno, i sindacati sono comunque molto soddisfatti. Massimo Di Menna della UIL Scuola. Sì, un buon risultato per la scuola, direi, per i lavoratori della scuola e per la scuola. Si sono trovate delle soluzioni intelligenti, condivise. Ora ovviamente tutto deve tradursi in provvedimenti del Consiglio dei Ministri, dei regolamenti. Ma si instaura un clima diverso che può favorire un processo di riforma e di innovazione di cui la scuola italiana ha bisogno. Su che cosa invece bisognerà lavorare ancora, al di là della soddisfazione del primo momento? Ma diciamo, dal punto di vista sindacale abbiamo il grande problema del precariato, perché abbiamo semplicemente convenuto di affrontarlo, di fare un tavolo specifico, ma lì bisognerà trovare delle soluzioni che garantiscono continuità, stabilità e nello stesso tempo favorire il processo di innovazione, anche di favorire l'ingresso dei giovani nella scuola. Poi c'è da affrontare tutto il problema del far funzionare meglio l'autonomia, perché la scelta importante, in questo non è apparso granché, però io penso che sia la questione un po' centrale, è che si è scelto di puntare sull'autonomia scolastica. Ecco, per entrare un po' più nello specifico invece, per quanto riguarda il maestro unico, che diciamo era l'ipotesi più contestata, anche quella che ha portato più gente in piazza in queste settimane, cosa significa questo cambiamento, questo accordo raggiunto? Nel senso, per il tempo pieno avete avuto garanzie assolute che resteranno i due insegnanti, è questo? Esatto, cioè viene confermato nel numero dei posti esistenti di organico il tempo pieno esistente e la tipologia di tempo pieno con i due insegnanti. Per quanto riguarda invece l'altra possibilità, quella del tempo soltanto, delle attività soltanto di mattina, secondo le richieste delle famiglie, quindi secondo l'organizzazione che la scuola dovrà fare, ci sono diverse possibilità. Il maestro unico con le 24 ore, quello previsto dal decreto, oppure l'insegnante prevalente con le 27 ore, oppure un'offerta ancora più arricchita con le 30 ore, che vuol dire qualche rientro pomeridiano, ed un'organizzazione più flessibile con un maggior numero di insegnanti. Quindi si è fatta una scelta che punta su diverse opportunità, perché una delle critiche che noi avevamo fatto al maestro unico, al di là del principio, era che non si poteva determinare un modello uguale per tutte le prime classi delle scuole elementari di tutta Italia, dove in molte scuole le famiglie stesse preferiscono l'attuale modello. L'altra novità è che slitta all'anno prossimo, al 2010, la riforma dei tecnici. Secondo lei è stato dovuto al fatto che le famiglie non erano abbastanza informate, che le scuole hanno bisogno di più tempo? Perché questo rinvio? Questo rinvio, almeno per come si è prospettato nel corso dell'incontro, è per favorire un processo di coinvolgimento per un cambiamento che nella scuola superiore è davvero molto grande. Si pensi che noi passiamo da 900 indirizzi oggi esistenti, quindi a una serie di sperimentazioni che si sono consolidate, a, parlando dei tecnici, a solamente 11 indirizzi. E per fare questo passaggio si punta molto anche qui sull'autonomia scolastica, sul fatto che le scuole possono cambiare alcune materie del programma, dell'orario che dovrebbe essere di 32 ore, e sceglierne delle altre. Questo comporta che le scuole devono progettare l'intervento, cioè cambia veramente per i tecnici un impianto. Quindi se, come è stato detto dal Ministro, l'impianto verrà confermato dal Consiglio dei Ministri e su questo si svilupperà un coinvolgimento, un'informazione, un approfondimento, può essere una buona cosa. Noi però abbiamo detto ieri nel corso dell'incontro che siamo fortemente interessati all'innovazione, che non può essere un rinvio che lascia tutto com'è, perché questa scuola ha bisogno davvero di essere modernizzata. L'anno superiore è ferma alla riforma Gentile e alle tante sperimentazioni fatte. Quindi ridare un po' di ordine è assolutamente necessario. Ecco, se si fa con una maggiore gradualità, anche questo può essere una buona cosa. Farei volentieri un mio film con protagonista il ministro Maria Stella Gelmini. Più erotica lei di Mara Carfagna. Parola di Tinto Brass. Ed ora parliamo di un fatto molto milanese, ma che comunque riguarda un sacco di gente. In questi giorni, zitte zitte, le scuole materne e primarie hanno affisso le nuove rette per la mensa del prossimo anno, e per molti è davvero una batosta. Pensate, fino a 31.000 euro si passa da 460 euro a 550, fino a 65.000 euro si passa da 460 euro a 750, oltre 65.000 euro si passa da 460 euro a 900. E poi altra sorpresa: dal prossimo anno, anche per iscriversi alla scuola materna, bisognerà pagare una tassa, 52 euro. Cominciamo da qui la nostra chiacchierata con l'assessore all'istruzione di Milano, Mariolina Moglioli. Innanzitutto questa cosa non è stata decisa. Nella previsione triennale del bilancio noi ipotizziamo, eventualmente, non certo a partire dal 2009, ma magari a partire dal 2010, una revisione complessiva dei criteri di accesso ai servizi. Una delle ipotesi potrebbe essere quella. E il senso di questa ipotesi, che non è approvata, va nella direzione del comportamento equo nei confronti di tutti, perché chi si iscrive ai centri estivi ha una tassa, chi si iscrive ai nidi ce l'ha già, ma non è ancora assolutamente decisa. Quindi ci sono speranze che ci si ripensi, perché insomma non è neanche tanto certo periodo per aumentare. No, le dico subito, con questo obiettivo che noi dobbiamo gravare il meno possibile sulle famiglie, tant'è che a fronte di un eventuale aumento dei trasferimenti dello Stato, nulla vieta che noi ripensiamo, e questa è una notizia che do a lei per prima, perché se fosse possibile siamo noi i primi a dare dei servizi, ad aiutare le famiglie proprio in una fase in cui sono in difficoltà. Quindi lei dice non è ancora sicuro, dipenderà anche dai soldi che arriveranno da Stato e Regione. Esattamente così. E poi c'è l'altra brutta notizia in arrivo, quella dell'aumento delle tasse per la mensa. Aumento per qualcuno, ma non per tutti, perché c'è tutto un sistema comunque di fasce di reddito, però per quelli oltre i 65.000 euro, ad esempio, c'è un aggravio notevole, perché passiamo dai 460 attuali ai 900. Prima, a partire dal reddito di 6.500 euro ISEE all'infinito, la quota di compartecipazione dei genitori era la stessa. Quindi uno che ha 20.000 euro di reddito lordo, tre componenti la famiglia, paga come uno che ha 100.000 euro. Noi abbiamo ritenuto di aggiungere delle fasce di equità, ma vale lo stesso discorso di prima. In questo senso, la Regione prima ci dava dei fondi per il diritto allo studio e il Comune a tutti i servizi. Allora noi attraverso questa rimodulazione aumentiamo i soggetti gratuiti, nello stesso tempo rimoduliamo il contributo delle famiglie aumentando per quelli che sono oltre i 12.000 euro ISEE. Se dovesse succedere che ci arrivano dei trasferimenti dallo Stato non abbiamo bisogno neanche di fare questa piccola cosa. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.